Luci d'angela sta compagna vostra, che ha già perduto il suo nea fantasia, che penso sempre e a tutta vita mia. Luci d'angela sta compagna vostra, già perduto il suo nea fantasia, che penso sempre e a tutta vita mia. E io vorrebbe dice, ma non lo saccio di, ti voglio bene, voglio bene assai. Trisci d'angela vuoi, che non la scordo mai. È una passione più forte di una catena, che mi sconvolge l'anima e mi fa campare. Luci d'angela che na rossa e maggio, e assai più bella na iurna dal sole, da buca soia più fresca delle viole. E io vorrei sapere si è innamorata mia. Ti voglio bene assai, ti voglio bene assai. Luci d'angela vuoi, che non la scordo mai. È una passione più forte da cadere, che mi sconvolge l'anima, mi fa campare, mi fa campare, mi fa ¿Eh?